due anni fa abbiamo debuttato con questo spettacolo su un tema che ci unisce molto, il vino. Eyes Wine Shot, per questo, perché si parla di vino e si beve vino. Oh, leggevo sulla scheda che siete bevitori senza essere intenditori in modo... Sì, io ho lavorato, diciamo che io lavoro, allora siamo assolutamente bevitori da sempre. Io ho lavorato un anno e mezzo in enoteca, allora un po'. Allora. No, ma diciamo che sei un intenditore, diciamo. No, niente intenditore, però diciamo che tra un vinaccio, un vino buono, ormai. Un anno e mezzo in enoteca, insomma, qualche idea te la fai. Esatto, insomma. Esatto. Però diciamo che noi siamo rimasti anche un po' affezionati al clima, un po' delle osterie. Quindi poi tu, Federico, l'hai visto lo spettacolo, no? Che ti non era un'osteria, però. No, nel senso. Che ti sei addormentato, esatto, al quinto minuto, però ci piace un po' ricreare un'atmosfera di convivio intorno al vino, invece magari adesso con queste troppa nozionistica si rischia sempre di essere un po' come un esame a scuola, o no, sbaglio? Sì, infatti lo spettacolo parla anche... Lo spettacolo parla anche del linguaggio che c'è sul vino, che ha raggiunto degli apici di difficoltà che molte persone, diciamo la stragrande maggioranza delle persone che in enoteca non si usano, diciamolo. Che cosa? Di questi termini. Tu che ci hai lavorato. No, si usano. Quindi devi essere preparato. Devi essere preparato. Infatti lo sketch finale è proprio su questo. Cioè, è un po' esagerato, però è un poveretto che vuole bere un bicchiere di vino e va incontro a mille difficoltà non previste, quando il bicchiere di vino è una cosa semplicissima che si fa da sempre, da migliaia e migliaia di anni, e invece è diventata una cosa complicata anche quella. Poi... per carità, noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, perciò sicuramente tutti i sentori che sono nel vino si sentono e ci sono, ma infatti ci piacerebbe fare lo spettacolo anche con un sommelier presente che dice che siamo noi dei cialtroni e che il vino che state bevendo si sente la confettura di more. Ma magari a noi sfugge. Tant'è però che ad esempio abbiamo avuto l'opportunità di fare lo spettacolo per coloro che producono, che fanno la rivista Bibenda, che quindi sono stati molto ironici, e l'abbiamo fatto lì all'Hotel Cavalieri dove c'è la sede, quindi insomma diciamo che non è un mondo così. Si lasciano anche un po' prendere in giro. No, assolutamente. Prendere in giro. Sono stati fantastici. Hanno fatto lo spettacolo per una lezione su come si comunica il vino. Ci hanno fatto un bellissimo articolo sulla loro rivista. E noi leggiamo questo prima, già leggevamo la loro guida ironicamente. E loro assolutamente non si sono offesi. Paola Simonetti e Franco Maria Ricci sono stati fantastici. Adesso torniamo per Natale a fare lo spettacolo lì all'Hotel Cavalieri, ed è stata veramente una sorpresa, no? Perché invece di offendersi dici ma cosa è? Invece ci hanno preso sotto braccio, e anzi è stato un bellissimo scambio, perché poi loro se ne intendono veramente, quindi era l'altra parte, no? In fondo, che cos'è una querela? Cioè, una querela arriva dopo. Quindi siamo stati educati a mandarcela dopo. Esatto, prima c'è il piacere dello stare insieme, poi si risponde. Poi traga. Poi se ne risponde davanti a un giudice, certo. Allora, cominciamo con un piccolo assaggio. Non tirare il freno a mano, sii generoso. No, innanzitutto però, scusami. Giuseppe magari spiega, che fa parte proprio dello spettacolo, perché il titolo, no? Okay. Allora, ci arriviamo dopo. Ci bruciamo, vabbè, tutto adesso. Zitto, allora. Allora, diciamo che guarda i tempi. Diciamo che la letteratura la letteratura che è stata scritta sul vino è enorme, cioè potevamo scegliere migliaia di testi veramente da Omero a Bukowski. Noi abbiamo fatto un'attenta selezione. E allora iniziamo lo spettacolo con una poesia sul vino molto particolare, trovata in un'enoteca vagando per le enoteche romane. L'autore è un anonimo ubriacone. La poesia del vino. Un giorno di Marzemino, al primo chiaretto dell'alba, camminavo nella Champagne dell'Oltrepò Pavese in mezzo al nebbiolo. Il tempo era un inferno, il cielo verdicchio tendente al grignolino, allorché mi dovetti riparare sotto ad un pinò e lì incontrai una soave donna fugata che aveva un vestito molto rosé. Non essendo un reciotto, tutto spumante, le diedi un dolcetto bacio sul bianco collo e, senza sforzat, le toccai la barbera della Bonarda. Subito il mio merlot, che non era ancora appassito, venne durello che pareva un cannonau, ma lei, screanzato, non volle che andassi oltre. E allora, deluso e rosso di Borgogna, le dissi, chardonnay-moi, madame. E con l'amarone in bocca e un groppello in gola, mi arrangiai da solo e... E Sauvignon de Brut. Ecco, vedete, questo è un esempio appunto dello spettacolo. Ti dicevi, girando per le enoteche romane, sì, questa sala, hai rinvenuto questa cosa. Quindi che ricerca avete fatto? Abbiamo fatto una ricerca, diciamo, più standard su internet, tutto quanto, testi sul vino. Poi abbiamo fatto una ricerca diciamo universitario letteraria, diciamo, perché lo spettacolo nasce come una matinée per le scuole, no? E quindi c'è tutta una parte didattica in cui raccontiamo che cos'è la chimica del vino, l'etimologia della parola, perché la stessa etimologia del vino è anche quella dell'amore di Venus e Venere, quindi che derivano tutte e due dalla stessa parola sanscrita. Quindi c'è anche tutta una ricerca scolastica, universitaria. E poi c'è stata una ricerca casuale nell'enoteca dove lavoravo, c'era questo scritto appeso sulla parete, lo guardo pian pianino, comincia a ridere, e devo dire che è un testo che mette subito gli spettatori in una situazione rilassata, cioè capiscono qual è il taglio dello spettacolo. Il taglio dello spettacolo è sì imparare quello che avreste voluto sapere sul vino ma non avete mai osato chiedere, ma è anche un taglio molto rilassato, molto divertente, molto ironico. È un po' un taglio al metanolo, diciamo. No, poi comunque, cioè l'Antonio colpisce, però, comunque, cioè, parla poco, ma forse comunque, sarebbe meglio che non parlasse tu, Federico, vedo che però non intervieni tu nel merito, nel senso che dopo è anche uno spettacolo di situazioni basato anche sulla nostra esperienza, diciamo, da attori, quindi ci sono delle scene divertenti, insomma. Ti chiederei, guarda, a proposito della performance che mettete in scena, sì, nel foyer, qual è la formazione o i riferimenti teatrali che vi hanno ispirato? Beh, qui dipende molto anche dalle longitudini dove ci troviamo, come ti anticipavo, nel senso che nel Regno Unito a noi ci paragonano un po' ai Gallagher, sì, degli Oasis, invece negli Stati Uniti se abbiamo... la voleva spendere questa, questa devo dire, invece negli Stati Uniti ci ispiriamo più a Jerry Lewis e a Dean Martin, sì, però vabbè. Qualsiasi domanda tu gli avessi fatto, lui doveva assolutamente dirlo. Beh, diciamo che i punti di riferimento è più un teatro cabaret in questo caso, sì, nel senso, sì, che non è un testo, non ci sono scenografie, non ci sono tagli di luce, quindi in questo caso, che non possiamo dire che sia il teatro che facciamo sempre, anche se tutti e due abbiamo un'esperienza nel cabaret, io per tanti anni, anche lui aveva un gruppo di cabaret, due gruppi diversi però, e il taglio è più cabarettistico, è molto diretto, è come se fosse non un monologhista ma siamo in due in scena e continuamente dialoghiamo col pubblico, quindi sicuramente il taglio non è teatrale nel senso di distanza, di quarta parete, bla bla bla bla bla. E il succo è veramente ironico e divertente, cioè noi vorremmo fare divertire la gente di fronte a un bicchiere di vino per un'ora scarsa. Sì, anche il titolo insomma ne è un po' un esempio, nel senso che prendiamo il titolo di un importante film con vari risvolti, un po' storpiandolo, e da lì si capisce che ci piace un po' creare anche appunto una recitazione di situazione, no? Sì, certo. La cosa interessante secondo me è che comunque c'è un apparato culturale dietro, no? Noi parliamo, facciamo delle facciamo delle citazioni anche da Nietzsche, oppure anche il titolo stesso Eyes Wide Shut, il film di Kubrick è tratto da un libro dell'Ottocento di Schnitzler che si chiama Doppio Sogno, e l'inizio dello spettacolo inizia parlando di qual è il doppio che sta dietro al vino, quindi il vino ha sempre dietro un doppio, che siamo anche noi due, che siamo in due lì a parlare del vino, e anche un sacco di riferimenti letterari, culturali. Non ci soffermiamo eccessivamente, però diciamo che l'impianto ha anche una sua base che dovrebbe non insegnare ma stimolare a cercare per il pubblico che esce dallo spettacolo. Oh. Beh, comunque insomma bisogna venirlo a vedere, no? Come tutte le cose, finché non le provi ragioni, no? Bene, esatto. Tutto quello che non t'ammazza te fortifica, come si dice a Roma, così. Non so perché dice queste cose. Non lo so. Mi spiazza. Vabbè, ma poi vorremmo sapere anche una tua opinione, che l'hai visto, ti sei divertito? Beh, tu? Sì, E poi avevo un buon bicchiere in mano. Ah, è vero, è vero, dai, c'è su. Anche questa opzione, che chi viene ha diritto a un bicchiere di vino un buono. Un ottimo bicchiere di vino piemontese con la mitica azienda vinicola Cadi. Non si può dire? Non si fa pubblicità. Ah no, neanche se lo sponsor, c'è da tutte queste bottiglie. Comunque allora, un'azienda vinica, mio... un'azienda vinicola piemontese. Piemontese, di cui scoprirete la, di cui scoprirete la natura. No, però tre vini diversi, uno può, perché poi c'è questo Cisterna d'Asti, il Barbera è un buon rosé che tu non hai avuto opportunità di assaggiare. Perché era caldo. Senti, a proposito del cabaret, visto che comunque lo avete praticato e continuate entrambi, quali sono gli elementi che vi piacciono di più del cabaret, che insomma vi hanno formato? Mi interessa a me questa cosa. L'elemento che proprio piace molto del cabaret è l'immediatezza col pubblico. Okay. Il problema è riuscire a trovare, perché io riesco a muovermi bene in un'immediatezza che non è, in cui il pubblico non invade il campo, no? Invece molto spesso i cabarettisti, anche molto bravi, riescono a reggere anche uno molesto che dice "Oh, Gerut, E tu mentre invece questa partecipazione del pubblico, questa eliminazione della quarta parete, questa durante l'introduzione noi diamo da bere al pubblico a Barbera e Champagne, quindi proprio c'è un'eliminazione della distanza, è molto interessante. E in questo spettacolo non c'è possibilità nel pubblico di invadere il campo. E questo, quindi mi trovo proprio nel mio. Quando ho avuto per 7 anni il gruppo di cabaret, c'erano alcune serate, eravamo un trio anche lì, non ero da solo, in cui però c'era questa invasione di campo anche secondo me rompeva lo schema dello spettacolo semplicemente. Invece ci sono fior di cabarettisti molto bravi che ci godono in questo, no? Più trovano uno molesto e più portano avanti, soprattutto la scuola romana è questo, sì. La scuola romana del cabaret, alla quale ovviamente non appartengo, non posso appartenere non essendo romano, e quindi questo è uno spettacolo che fa sentire il pubblico a suo agio, ma lo tiene alla giusta distanza, non è che tutto che finisce in caciara, non so come dire. Questo per quel che mi riguarda, sento che mi viene fuori quell'esperienza lì di tanti anni, però la porto a degli esiti divertenti anche per me. Esatto. E Gallagher che dice? Beh, Liam direbbe Beatles e Manchester City. Ah no, però domani c'è la partita, non lo diciamo più. Va bene, sì, comunque per noi è un'occasione di... Abbiamo avuto molti traumi recitativi, quindi per noi è un'occasione di fare un po' quello che ci piace. Diciamo appunto di situazioni, ma facendo traumi nomi, recitativi. No, diceva lui, sai, così nella vita si è sempre un po', si prendono sempre un po' di bottarelle. Traumi, diciamo che un po' ci ispiriamo magari così a raccontarti le botte della sua vita. Insomma, dai, la comicità classica del nostro... La nostra tradizione, no? Gelo. Mi vai con un Neruda? Ah, facciamo Pablo, che dura 25 minuti. Partiamo con Neruda, che è l'altra poesia, l'altro risvolto della poesia sul vino, della letteratura sul vino, che è un grande autore, che tutti noi conosciamo, che ha fatto queste odi elementari su vari elementi, tra cui il vino. Ode al vino di Pablo Neruda. Vino color del giorno. Vino color della notte. Vino coi piedi di porpora e il sangue di topazio. Vino stellato, figlio della terra. Vino liscio come una spada d'oro. Morbido come un disordinato velluto. Vino inchiocciolato e sospeso. Amoroso. Marino. Sulla tua onda andiamo di tomba in tomba. Taglia pietre del sepolcro gelato. E piangiamo. Lacrime passeggere. Ma il tuo bel vestito di primavera è diverso. Il cuore monta i rami. Il vento muove il giorno. E nulla rimane nella tua anima immobile. Il vino muove la primavera. Cresce come una pianta d'allegria. Da loro cadono i muri. Le rocce. Si chiudono gli abissi. E nasce il canto. Tu caraffa di vino nel deserto con la bella che amo, disse il vecchio poeta. Che la brocca di vino al bacio dell'amor aggiunga il suo bacio. Amor mio, d'improvviso il tuo fianco è diventato la curva colma della coppa. Il tuo petto è il grappolo. La luce dell'alcol la tua chioma. Le uve i tuoi capezzoli. Il tuo ombelico è un sigillo puro impresso sul tuo ventre di anfora. E il tuo amore, la cascata di vino inestinguibile. La chiarità che cade sui miei sensi. Lo splendore terrestre della vita. Amo sulla tavola quando si conversa la luce di una bottiglia di intelligente vino. E allora che lo bevano. E ricordino in ogni goccia d'oro. O coppa di topazio. O cucchiaio di porpora. E l'autunno lavorò per riempir di vino le anfore. Ed impari l'uomo oscuro. Nel cerimoniale del suo lavoro. A ricordare la terra e i suoi doveri. E a diffondere il cantico del frutto. Grazie. Ah. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Questa è una poesia. L'anno ce lo ricordiamo? Sì, 1954. Questa è una poesia che è all'interno di una raccolta che si chiama Le Ode Elementari, in cui Pablo Neruda esalta le qualità di altri elementi cosiddetti semplici. Come... Io mi ricordo la cipolla, l'ode alla cipolla. Sì, c'era la cipolla, la castagna, l'olio e il pane che rivivono attraverso appunto la giovinezza e l'adolescenza del poeta che ne fa una traslazione, insomma. Ma di letteratura alta c'erano altre possibilità, cioè non è escluso che se poi adesso siamo, abbiamo fatto una trentina di repliche, quindi ancora poco per uno spettacolo, ma non è escluso che la sostituiremo fra dopo 50 repliche, perché le poesie sul vino di autori importanti sono tantissime. Sono tante, addirittura poi noi a un certo punto facciamo anche una Yeats che si chiama La canzone al vino, però adesso non facciamole tutte. Non facciamole tutte, anche se sei generoso oggi. Allora, visto che c'erano, quando ci sei tu sai che non so resistere, considerato che c'erano insomma nella poesia ampi riferimenti ai sì. piaceri della carne, io parlerei, direi anche qualcosa rispetto sempre all'interno dello spettacolo relativo all'origine della parola che tu ricordavi, esatto. Venere, che sì. va dunque sia Barbera, sanscrito. Sì, sia Barbera e Champagne che la poesia del vino, quella dell'anonimo Umbriacone, che Neruda hanno un tema ricorrente che è sempre il tema del doppio, è uno dei tanti doppi che stanno dietro il vino, che è il tema dell'amore della donna e in un caso è un amore di due che sono stati mollati, triste, l'altro un amore molto carnale, qua un amore molto poetico. Come diciamo nello spettacolo, questo avviene per ragioni etimologiche oltre che storiche e di vita. Infatti la parola vino deriva dalla parola sanscrita vena, ed è la stessa origine di Venus e Venere, come dicevo prima. Quindi l'amore, la donna e il vino hanno la stessa origine semantica. E questo è molto interessante, perché è uno spunto che abbiamo scoperto anche noi, non parliamo il sanscrito. Tu parli il sanscrito, Gian Antonio? Beh, insomma, ogni tanto. Quando è Gallagher. Esatto. Quando esatto. è Gallagher parla il sanscrito. Esatto. Abbiamo scoperto questo, e proprio partendo da questo spunto forse ci siamo... inerpicati e buttati in questo spettacolo cercando i passaggi doppi che stanno intorno al vino, al linguaggio del vino. Mm-hmm. E invece rispetto nello spettacolo ci sono anche delle note più tecniche sulla composizione del vino. Sì, noi tentiamo, essendo appunto la prima replica fatta una matinée per l'alberghiera a Ferrara, noi abbiamo tentato di anche spiegare dal punto di vista chimico, però alcune cose si riescono a spiegare, altre per uno spettacolo teatrale è un po' complicato. Per esempio la fermentazione dal punto di vista chimico, a un certo punto ci fermiamo disperati senza raccontarlo, perché è veramente... La fermentazione è un processo chimico abbastanza complicato, no? Infatti il vino è un prodotto non naturale ma artefatto, creato dall'uomo, ed è un prodotto abbastanza complicato, proprio per questo ha anche un linguaggio complicato dietro di sé. E quindi la spiegazione proprio chimica, tecnica della fermentazione non è nelle corde di uno spettacolo teatrale, o forse altri due più bravi di noi riuscirebbero a raccontarlo. Non so, io lì non mi ricordo, sapete più voi, perché io lì sono un po' assente. Ecco, lui si assente. Mi ricordavo ci fosse no. questa parte. Per esempio, no, assistendo questa parte nello spettacolo mi era venuta una curiosità, perché a quello che sapevo io, per quante erano le mie nozioni rispetto per esempio alla cultura del vino romana, proprio nell'antica Roma, il vino che si faceva era qualcosa di abbastanza quasi solido, era se non sbaglio credo proprio di sì, credo che molto viscoso, insomma, cioè quello dici del triclinio romano delle feste, sì, credo sì. che fosse una roba, adesso sarebbe imbevibile e credo che poi quello che beviamo noi in realtà parte dalla stessa frutto, ma è molto diverso. Perché ad esempio, però, scusa se ti interrompo, credo che derivi dall'antica Roma il termine infinocchiare, perché spesso gli osti si può dire, sì, mettevano non è una parola, neanche una bestemmia, mettevano come si chiama, le foglie di finocchio, per dare al vino un gusto migliore di quello in cui in realtà effettivamente era, e quindi da lì deriva il termine appunto infinocchiare. E mo mudisci alla radio. Non ho capito, possiamo dirlo durante lo spettacolo questo? Vabbè, salta io fuori adesso, magari c'è tutta una... Ho l'esclusiva con Radio Onda Rossa, ragazzi. Ah, è l'esclusiva con Sono Radio Onda Rossa. Sono Gian Antonio Martinoni, ascolto Radio Onda Rossa. Ah, quindi... Beh, segnalo, te lo rispendi poi nello spettacolo. No, credo, però non so in che, forse nel Medioevo, non mi ricordo qualcosa del genere. Poi, per esempio, rispetto sempre alla tradizione romana del vino, no? Se pensiamo a una canzone come, guardate, ecco Marino, la sagra... E proprio capisci che il vino si è trasformato nella seconda parte del dopoguerra. Nel primo dopoguerra ogni italiano, anziani e neonati compresi, consumava circa 100 litri di vino all'anno. Adesso sono diventati tipo 36 o 37, una roba del genere. Comunque c'è meno allegria. Comunque, intanto c'è meno allegria. E c'è meno della metà, perché il vino si è trasformato, non è più un alimento, ma è una bevanda. Cioè una bevanda anche molto raffinata, una bevanda che si usa per prendere l'aperitivo, ma se ne beve uno. Invece una volta era un vero e proprio alimento, che anche la gente che lavorava, faceva lavori duri, lo usava proprio per cibarsi, per avere energia. E quindi, oltre a essere un fattore di socialità. Oltre a essere un fattore di socialità. E quindi, anche sentendo la canzone che ho detto prima, insomma, capisci che proprio era un altro mondo rispetto al vino e quello in cui viviamo. Figuriamoci gli antichi romani. Però c'è da dire che credo che il mercato del vino sia uno di quelli in positivo, e questo per il nostro, perché uno che sta tirando insomma il carro dell'economia, come dire. Ah, sì, insieme, sì, cioè, a quello del gastronomico. Se ne beve, eno gastronomico. Se ne beve molto meno come quantità, ma molto di più come qualità. Esatto. E no, e noi in questo siamo all'avanguardia, credo. Senti, chiudiamo con un altro assaggio, un'altra pillola. Un'altra pillola. Un'altra pillola. Io vorrei dare la parola. T'ha preso in contropiede. Sì, io vorrei dare la parola al mio collega, che ha una poesia d'amore che sa a memoria, e adesso farà, pensando alla sua bella, alla sua innamorata, questa canzone di William Butler Yeats, la che prima citava. Il vino raggiunge la bocca, l'amore raggiunge gli occhi. È questa la sola cosa che ci è dato conoscere prima di invecchiare e morire. Sollevo il bicchiere alle labbra, ti guardo e sospiro. Bravissimo. Io ho la lacrima. Bravissimo. Perché adesso lo posso ascoltare. Lacrima di Morro d'Alba. Sì, poi chi ci ascolta non può vedere l'intensità dello sguardo. No, guarda, era una cosa, cioè ho Frida Angol. Guardate che sono scemo, pelle, ma capisco quando mi d'oca. Si prende in giro. Ho la pelle d'oca.